Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge La sovrana lettrice di Alan Bennett. Traduzione di Monica Pavani. La regina lesse il racconto della vita di Ackerley. Provò una modica sorpresa nell'apprendere che, pur lavorando alla BBC, era omosessuale. Le pareva che nell'insieme la sua vita doveva essere stata triste. Il suo cane la incuriosiva, anche se la sconcertavano le intimità quasi veterinarie che l'autore largiva alla creatura. Si stupì anche che le guardie reali si concedessero così di buon grado, come rivelava il libro, e a prezzi davvero ragionevoli. A corte ce n'erano parecchie di guardie reali e le sarebbe piaciuto saperne di più, ma nonostante la curiosità non si sentì di fare domande. Nel libro compariva anche A.M. Forster, con cui la regina ricordava di aver passato un'impacciata mezz'ora conferendogli il titolo di Companion of Honor. Timido e con la faccia da topo, aveva detto due parole in tutto e con una vocina talmente sommessa che l'era stato quasi impossibile comunicare con lui. Ma quell'uomo riservava delle sorprese. Seduto con le dita intrecciate come un personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie, non lasciò trapelare cosa gli passasse per la testa. Così Sua Maestà, leggendo la sua biografia, fu piacevolmente sorpresa nello scoprire che, molto tempo dopo, Forster aveva dichiarato che se la regina fosse stata un ragazzo, si sarebbe innamorato di lei. Naturalmente Forster non avrebbe potuto dirglielo di persona, questo la regina lo capiva, ma più leggeva, più le rincresceva intimidire tanto le persone. Le sarebbe piaciuto che gli scrittori, in particolare, avessero il coraggio di dirle quello che poi avrebbero scritto. Stava anche scoprendo che un libro tira l'altro. Ovunque si voltava, si aprivano nuove porte e le giornate erano sempre troppo corte per leggere quanto avrebbe voluto. Ma era dispiaciuta e anche mortificata al pensiero di tutte le occasioni che si era lasciata sfuggire. Da bambina aveva incontrato Maysfield e Walter de la Mare. Era ovvio che allora non potesse avere molto da dirgli, ma si era trovata davanti anche Thomas Stearns Eliot, oltre a Priestley, Philip Larkin e perfino Ted Hughes. Per Hughes si era presa una piccola cotta, anche se lui non era riuscito a spiccicare una parola in sua presenza. Ed era andata così perché all'epoca aveva letto talmente poco di quello che avevano scritto da non avere argomenti. E loro, del resto, non avevano detto molto che avesse suscitato il suo interesse. Che spreco! La regina fece l'errore di lamentarsene con Sir Kevin. «Ma qualcuno l'avrà pure ragguagliata, maestà?» «Certamente», disse la regina, «ma ragguagliare non è leggere, anzi è l'esatto contrario. Il ragguaglio è succinto, concreto e pertinente. La lettura è disordinata, dispersiva e sempre invitante. Il ragguaglio esaurisce la questione, la lettura la apre». «Se mi consente, sarebbe il caso di tornare alla visita al calzaturificio, maestà», disse Sir Kevin. «La prossima volta», tagliò corto la regina. «Dove ho messo il mio libro?» Adesso che aveva scoperto le gioie della lettura, Sua Maestà era impaziente di trasmetterle agli altri. «Lei legge Summers?» chiese all'autista sulla strada per Northampton. «Se leggo, maestà». «Libri?» «Quando posso, maestà. Non è che abbia molto tempo». «Dicono tutti così. Ma il tempo bisogna ritagliarselo. Prenda stamattina. Dovrà star seduto ad aspettarmi fuori dal municipio. Potrebbe approfittarne per leggere». «Devo sorvegliare l'auto, maestà. Quelle sono le Midlands. Il vandalismo è all'ordine del giorno. Non appena la regina fu consegnata incolume nelle mani del rappresentante della corona, Summers fece un giro precauzionale attorno all'auto prima di accomodarsi sul sedile. Leggere? Certo che leggeva. Tutti leggono. Aprì il vano portaoggetti e prese la sua copia del Sun. Altri, specialmente Norman, erano più disponibili e la regina non gli nascondeva l'inadeguatezza del proprio bagaglio culturale. «Lo sa?» gli disse un pomeriggio mentre leggevano nel suo studio. «Lo sa dov'è che potrei veramente eccellere?» «No, maestà. Nei quiz premi dei pub. Sono stata ovunque. Ho visto tutto. E anche se posso avere delle lacune nella musica pop o in certi sport, quando si tratta della capitale dello Zimbabwe, per esempio, o delle principali esportazioni del New South Wales, non ne sbaglio una». «E al pop potrei pensarci io», disse Norman. «Sì, saremmo una bella squadra. Vediamo un po'. La strada non presa. Chi era?» «Chi, maestà?» «La strada non presa. Vada a vedere». Norman consultò il dizionario delle citazioni e scoprì che era Robert Frost. «Adesso so come definire la sua figura professionale», disse la regina. «Maestà?» «Lei fa le commissioni, va a cambiare i miei libri in biblioteca, cerca le parole difficili sul dizionario e mi trova le citazioni. Lo sa cos'è? Io ero uno sguattero, maestà. Beh, adesso non l'è più. Lei è il mio factotum». Norman cercò la parola sul dizionario che adesso la regina teneva sempre sullo scrittoio. «Persona che svolge varie mansioni godendo della piena fiducia del datore di lavoro». Il nuovo factotum aveva una sedia in corridoio vicino all'ufficio di sua maestà e quando non era di servizio o in giro per commissioni passava il tempo a leggere, il che lo mise in cattiva luce con gli altri paggi che lo consideravano uno scansafatiche non abbastanza bello per quel ruolo così ambito. Ogni tanto un attendente di passaggio si fermava a chiedergli se non avesse niente di meglio da fare e le prime volte Norman rimase interdetto. Poi però si mise a dire che leggeva dei libri per sua maestà. Spesso era vero, ma anche abbastanza irritante da lasciare l'attendente di umor nero. Con il fatto che leggeva sempre di più, la regina ora prendeva in prestito i libri da varie biblioteche, comprese alcune delle sue, ma per ragioni sentimentali e per simpatia nei confronti del signor Hutchings, saltuariamente si avventurava ancora nel cortile delle cucine per visitare la biblioteca circolante. E tuttavia un mercoledì pomeriggio vide che non c'era e lo stesso accadde anche la settimana successiva. Norman fu subito incaricato di informarsi e venne a sapere che la sosta a palazzo era stata annullata per via dei tagli. Alla fine riuscì a rintracciare il furgone nel cortile di una scuola di Pimlico, dove l'imperterrito Hutchings stava attaccando etichette sui libri. Fu lui a informare Norman di aver segnalato all'assessorato che sua maestà era annoverata fra gli utenti, ma in comune la notizia non aveva fatto né caldo né freddo. Del resto, prima di cancellare le visite, avevano negato di avere un qualsivoglia interesse per quel servizio. Quando Norman, molto scandalizzato, raccontò questa storia alla regina, lei non fece una piega. Non disse niente, ma questo confermava i suoi sospetti. Cioè che a palazzo leggere libri, perlomeno se lo faceva lei, non era ben visto. La perdita della biblioteca circolante fu un piccolo incidente di percorso che comunque condusse a un lieto fine. Il signor Hutchings si vide incluso nel successivo elenco di destinatari di onorificenze, a dire il vero in una posizione un po' marginale, ma pur sempre enumerato fra coloro che avevano reso uno speciale servigio a sua maestà. Nemmeno questo fu ben visto, in particolare da parte di Sir Kevin. Era inevitabile che Sir Kevin Scatcherd, neozelandese di nascita, fin dal momento della nomina, di per sé eccentrica, fosse stato acclamato dalla stampa come una ventata d'aria nuova, un tipo giovanile e che avrebbe spazzato via un po' dell'atmosfera ingessata e dei ridicoli salamelecchi che caratterizzavano la monarchia. A questo proposito la corona veniva descritta come il banchetto di nozze della signora Havisham in grandi speranze, i lampadari coperti di ragnatele, la torta infestata dai topi e Sir Kevin nel ruolo del signor Pip che strappa via le tende marce per far entrare la luce. La regina, essendo stata anche lei a suo tempo una boccata d'aria fresca, non la vedeva così. E sospettava che quell'uragano degli antipodi si sarebbe presto placato da sé. I segretari privati, come i primi ministri, andavano e venivano. Quanto a Sir Kevin, Sua Maestà aveva la sensazione di rappresentare un mero trampolino di lancio verso le vette aziendali cui era palesemente orientato. Si era laureato alla Harvard Business School e uno degli obiettivi che aveva pubblicamente dichiarato era di rendere la monarchia più accessibile. «Esporre la nostra merce», diceva lui. L'apertura di Buckingham Palace ai visitatori era stato un passo in quella direzione, così come l'uso del giardino per qualche concerto di musica classica, pop e altro. La lettura, però, lo innervosiva. «Sono del parere, maestà, che sebbene leggere non sia propriamente un fatto elitario, trasmetta il messaggio sbagliato, direi di esclusione». «Di esclusione? Ma non sanno leggere quasi tutti». «Che sappiano leggere non c'è dubbio, maestà, ma non sono sicuro che lo facciano». «Benissimo, Sir Kevin, allora diciamo che sto dando il buon esempio». La regina sorrise con dolcezza, notando che ultimamente Sir Kevin era molto meno neozelandese di quando era fresco di nomina. Adesso nel suo accento c'era solo una vaga traccia di quelle origini che Sua Maestà sapeva di non dovergli rammentare per non urtare la sua suscettibilità, glielo aveva detto Norman. Un altro tasto delicato era il suo nome di battesimo. Il segretario privato lo viveva come un fardello. Fosse di peso da lui, Kevin non era certo il nome che si sarebbe scelto e il fatto di detestarlo lo rendeva molto più conscio del numero di volte che lo usava Sua Maestà, anche se lei non poteva sapere quanto fosse degradante per lui. Cioè, lo sapeva benissimo, sempre per via di Norman. Ma il nome di chiunque per lei non aveva la minima importanza, come tutto il resto, l'abbigliamento, la voce, la classe sociale. La regina era un'autentica democratica, forse l'unica del paese. Sir Kevin invece pensava che lei non avesse motivo di usare il suo nome così spesso e certe volte aveva la netta impressione che Sua Maestà lo pronunciasse alitandovi un soffio di Nuova Zelanda, terra di pecore e di domeniche pomeriggio. Del resto, la regina, in qualità di capo del Commonwealth, l'aveva visitata diverse volte dichiarandosene entusiasta. «È importante, disse Sir Kevin, che Sua Maestà non perda di vista gli obiettivi». «Quando dice non perdere di vista gli obiettivi, Sir Kevin, immagino intenda stare sulla palla. Beh, dopo esserci stata per 60 anni, penso di potermi guardare un po' intorno». La regina si accorse di avere un po' stiracchiato la metafora, ma tanto Sir Kevin non se n'era accorto. «Capisco», disse lui. «Sua Maestà deve passare il tempo». «Passare il tempo?» esclamò la regina. «I libri non sono un passatempo. Parlano di altre vite, di altri mondi. Altro che far passare il tempo, Sir Kevin. Non so cosa darei per averne di più. Per passare il tempo si può sempre andare in Nuova Zelanda». Sentendo tirare in ballo due volte il proprio nome e una volta la Nuova Zelanda, Il segretario si ritirò offeso. In ogni caso, aveva detto quello che pensava. E magari si sarebbe fregato le mani se avesse saputo che la regina n'era rimasta turbata. Non capiva come mai, proprio in quella fase della sua vita, all'improvviso, avesse sentito il richiamo dei libri. Da dove le veniva quella smania? In fondo erano in pochi ad aver girato il mondo come lei. Si contavano sulle dita di una mano i paesi che non aveva visitato, le personalità che non aveva incontrato. Perché mai lei, che faceva parte del gota del mondo, adesso era allettata dai libri, che del mondo erano solo un riflesso o una riproduzione? I libri. Lei aveva già visto le cose dal vero. «Forse», disse a Norman, «leggo perché sento di dover indagare la natura degli esseri umani». Un'osservazione piuttosto trita che Norman non degnò di particolare attenzione. Lui si sentiva esentato da quell'obbligo e leggeva per puro piacere e non per trarne una rivelazione. Parte del piacere, è vero, era la rivelazione, ma non aveva niente a che fare con il dovere. Tuttavia, per una persona come la regina, il piacere era sempre venuto dopo il dovere. Se si sentiva in obbligo di leggere, poteva farlo con la coscienza pulita. Col piacere se ne provava come valore aggiunto. Ma perché adesso la lettura l'assorbiva così tanto? Non sottopose la questione a Norman, perché era evidente che c'entrava con chi era lei e con la posizione che ricopriva. L'attrattiva della letteratura, rifletté, consisteva nella sua indifferenza, nella sua totale mancanza di deferenza. I libri se ne infischiavano di chi li leggeva. E se nessuno li apriva, loro stavano bene lo stesso. Un lettore valeva l'altro e lei non faceva eccezione. La letteratura, pensò, è un Commonwealth. Le lettere sono una repubblica. In realtà quell'espressione, la repubblica delle lettere, l'aveva già sentita nei discorsi dei rettori alle lauree ad honorem e simili, senza mai aver capito bene cosa significasse. All'epoca aveva ritenuto leggermente offensivo qualsiasi riferimento a una qualunque repubblica. Se poi il riferimento avveniva in sua presenza, come minimo lo considerava una mancanza di tatto. Solo adesso afferrava il senso di quell'espressione. I libri non sono per nulla ossequiosi. Tutti i lettori sono uguali. E questo le risvegliò un ricordo di quando era bambina. Uno dei momenti più elettrizzanti della sua infanzia era stata la notte della vittoria, quando lei e sua sorella erano sgattaiolate fuori dai cancelli e si erano mescolate alla folla in incognito. Leggere le dava una sensazione simile, la gioia dell'anonimato, della condivisione, della normalità. Lei, che aveva vissuto una vita diversa dalle altre, scopriva di avere un estremo bisogno di tutto questo. Fra le pagine e dentro le copertine poteva passare inosservata. Questi dubbi e interrogativi, però, se li pose solo all'inizio. Una volta preso l'avvio, la voglia di leggere non le sembrò più strana e i libri, a cui si era accostata con tanta cautela, a poco divennero il suo elemento. Una delle regali incombenze di Sua Maestà era l'apertura del Parlamento, un impegno che prima non le era mai sembrato gravoso. Anzi, anche dopo 50 anni trovava piuttosto piacevole percorrere il Mall in Landò un chiaro mattino d'autunno. Ma adesso non più. Paventava le 2 ore dedicate all'evento, anche se per fortuna stavolta si andava in carrozza e non in Landò, così poteva portarsi il suo libro. Era diventata piuttosto brava a leggere e salutare contemporaneamente. Il segreto era tenere il libro nascosto sotto il finestrino e concentrarsi sulle pagine e non sulla folla. Il duca naturalmente disapprovava, ma per lei, caspiterina, era indispensabile. E fin lì nessun problema. Non fosse che appena salita in carrozza, con il corteo già schierato sulla spianata del palazzo e pronto a partire, Sua Maestà, inforcando gli occhiali, si rese conto di essersi dimenticata il libro. E mentre il duca si stizziva nel suo angolo, i postiglioni fremevano e le bardature tintinnavano sui cavalli scalpitanti, Norman sentì squillare il telefonino. La guardia reale rimase in riposo e la processione attese. Il maestro di parata guardò l'orologio. 2 minuti di ritardo. Non si poteva far peggior torto alla regina e costui, non sapendo nulla del libro, temeva già ripercussioni. Ma ecco che arrivò Norman, zampettando sulla ghiaia, con il libro saggiamente nascosto in uno scialle, e via che partirono. Lungo il mall, comunque, la coppia reale era di pessimo umore. Il duca salutava astioso da una parte e la regina flemmatica dall'altra, e per giunta, andando a velocità spedita, dato che la processione stava cercando di recuperare i 2 minuti. Appena arrivarono a Westminster, Sua Maestà ficcò il libro clandestino dietro un cuscino della carrozza, pronto per il viaggio di ritorno, e mentre si sedeva sul trono e si imbarcava nel suo discorso, fece caso a quant'erano noiose le sciocchezze che era tenuta a propinare nell'unica occasione che aveva di leggere a voce alta alla nazione. «Il mio governo farà questo, il mio governo farà quell'altro». Era proprio scritto coi piedi e talmente privo di stile o di interesse che le sembrava disminuire l'atto stesso della lettura. Senza contare che quell'anno la sua esibizione fu ancora più confusa del solito, tesa com'era anche lei a recuperare i 2 minuti. Fu dunque con un certo sollievo che Sua Maestà risalì in carrozza e allungò una mano dietro il cuscino per prendere il suo libro. Non c'era. Salutando risoluta mentre si rimettevano fragorosamente in marcia, la regina tastò furtiva dietro gli altri cuscini. «Non ti ci sei seduto sopra?» «Sopra cosa?» «Il mio libro!» «No, guarda che ci sono i volontari con le sedie a rotelle, saluta per l'amor di Dio!» Quando arrivarono a palazzo, la regina interpellò Grant, un giovane valletto che aveva seguito la parata, e venne a sapere che mentre Sua Maestà era alla Camera dei Lord, la sicurezza aveva sguinzagliato i cani poliziotto e le aveva confiscato il libro. Grant riteneva che l'avessero fatto esplodere. «Esplodere!» disse la regina. «Ma era Anita Bruckner!» Il giovane, decisamente poco ossequioso, disse che magari la sicurezza l'aveva scambiato per un ordigno. E la regina: «Ma certamente, perché lo è. Un libro è un ordigno per infiammare l'immaginazione». «Sì, maestà», fece l'altro. Era come se parlasse con sua nonna, e ancora una volta la regina dovette prendere atto dell'ostilità che sembravano suscitare le sue letture. «Benissimo», disse. «Allora mi faccio il piacere di informare la sicurezza che domani mattina mi aspetto di trovare sul mio scrittoio un'altra copia del libro, non brillata». Fece per andarsene, ma si voltò. «In più, i cuscini della carrozza sono luridi. Guardi i miei guanti». «Porca puttana», disse il valletto, tirando fuori il libro dal davanti dei pantaloni dove gli avevano detto di nasconderlo. Con grande sorpresa generale, però, non venne rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale sul ritardo del corteo.